later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli nemmeno J.G. Ballard riuscirebbe a sbrogliare la matassa, K e Drago sono tornati adolescenti. La canzone del sole? Dai, facciamo la canzone del sole! Ma di nuovo? Ma figa, K, è la 30ª volta che la cantiamo! Allora acqua azzurra, acqua chiara. Ma acqua azzurra, acqua chiara? Dai. Tipo Video Kill the Radio Stars? No, è più da ragazzi della nostra età, 1980, giù di lì, no? Video Kill the Radio Stars? Con l'ukulele? Perché non si può? Ma dai, Trevor Horn si rivolta sul mixer. Beh, allora qualcosa di più acustico, tipo Bob Dylan. Vabbè sì, Bob Dylan si rivolta nella camera d'albergo. Fabbrica di polli. Uè, ma mia madre mi ha detto di far pipì dentro sto botticino per il test antidroga. Ma io metto la pipì del cane, dici che se ne accorge? No, eh. Io invece metto l'aranciata. Uè, sei furbo, eh. L'ho imparato dai ciclisti del Giro d'Italia. Spero solo che il mio cane non sia mai stato in camera mia mentre fumavo l'erba. Altrimenti è inutile tutto lo sbattimento di fargli far pipì nel botticino. E poi come fai a convincere il cane a far la pipì dentro il botticino? Scusa, non lo so ancora. È quasi come convincerlo a baciare Asia Argento. Non lo so ancora, forse è più facile convincerlo a baciare Asia Argento. Comunque ci provo, Altrimenti vai anche tu di aranciata. Vai anche tu di aranciata. Analisi logica. Vai. Predicato verbale. Anche. Congiunzione. Tu. Soggetto. Di aranciata. Complemento di. Di. Cos'è di aranciata? Complemento di specificazione. Di materia. Complemento oggetto. Cos'è questa roba? Ma che frase è? Ma chi parla così? Das ist keine Werbung. Das ist eine Verstellung. Alle Händchen ähnliche Bewegung. Durch die Elektrizitätsleitung. Und die ideale Verstärkung. Sono stato incaricato io di stare vicini in questo momento difficile, eh? Tra poco voi entrerete nel reparto della morte, eh? E poi di lì ne uscirete solo già vuoti nel cellophane, eh? Allora, il petto se ne andrà per i mercati europei, le ali per quello arabo e le cosce per quello slavo, eh? Ehi, sì, Tarek, so, so. Comunque non preoccupatevi, perché sarà tutto rapido e indolore, Prima di affidarvi ai secondini, però, ho anche il dovere di chiedervi se per caso avete ancora delle pillole di paroxetina con voi, Perché visto che tra poco passerete a miglior vita, no? E sarebbe uno spreco, no? Farvi andare al patibolo con le tasche piene di quegli antidepressivi più così costosi, no? Mica lo dico per me, no? Comunque. E vediamo un po'. Ebbene, grazie, grazie. Adesso grattate pure, e avvolti nel cellophane, intanto poi manca il respiro. In the middle of nowhere. Oh, meno male che siamo di nuovo adulti, Kappa. L'esperienza di tornare ragazzino che ogni tanto mi succede mi mette sempre un po' a disagio. Ma perché? Ma scusa, sei il sogno di tutti i maschi del pianeta. Tornare ragazzino a giocare a Subbuteo alle 5 del pomeriggio con la mamma che in cucina ti prepara la merenda per te e i tuoi amici. Non è il massimo! No, non lo so, sinceramente. Il fatto è che mi ritorna anche tutta la angst giovanile. Capito? La angst giovanile. Sì, ho capito. La angst giovanile. Le nozioni di primo di classe. Angst, parola tedesca che significa angoscia, paura, molta paura di angst. La fabbrica di polli. Ecco, io non voglio mai più cadere preda della angst giovanile, mai più, Kappa. Da come frigni si direbbe che ci sei in pieno. Ah, dici? Sì. Ma vedi, la angst giovanile è una cosa che basta evocarla e ritorna. Insicurezza, goffaggine, forfora, brufoli, voce che cambia, incertezza sessuale. Ciao, mi chiamo Tania. Sì, ma anche spensieratezza. Dai, il pensiero che c'era tempo per fare tutto e per rimediare a tutti gli errori. Quel pensiero lì adesso te lo scordi. Tutto quel tempo lì adesso non te lo senti più a disposizione, Drago. Le possibilità ormai te le sei giocate quasi tutte. Nel giro di pochi anni ti danno una spallata e sei fuori gioco. Ma chi? Ma dove? Dai, in questa fabbrica il tempo non esiste. Hanno fatto in modo di fermare l'invecchiamento. Ma le vedi le donne di 60 anni che pretendono di portarsi a letto il trentenne, costi quel che costi? Il nostro futuro sarà un grande circolo per anziani con le PlayStation al posto delle bocce e la musica anni 60, 70, 80 e 90 al posto del liscio. Beh, bello, dai. Balleremo reality abbracciata a un ottantenne. Sì, sì, balleremo reality in un reality abbracciati a un ottantenne con le tette da ventenne. Che impressione. Comincia pure ad abituarti. La fabbrica di polli. Figa, Kappa, sono arrivati i risultati dei test antidroga. Alla faccia della privacy ho visto il tuo, tu sei negativo e per forza ho l'aranciata. Sei furbo. Io invece sono positivo. Il mio cane era drogato. Ah, ma i tuoi sono incavolati? Beh, ma io ho dato la colpa al cane, In che senso? Nel senso che li ho convinti che il cane aveva mangiato della marijuana in qualche campo intorno alla casa e che poi, giocando con me, me l'aveva trasferita. Piuttosto di pensare che io fumi, hanno preferito crederci. Ma sei un figo! Però adesso mi cresce dentro quel senso di colpa incombente. Oddio, che cosa mi succederà? Mi scopriranno e mi manderanno in una comunità di preti? Ormai il mio cervello è in pappa, non combinerò mai niente nella vita. No, Drago! Pensaci, cioè io praticamente mi sono giocato tutto il mio futuro adesso. La angst giovanile, no? Angst giovanile a stecca. Giovanile mica tanto. Che cosa succederà adesso? Gli effetti dell'angst giovanile sono più o meno devastanti di quelli dell'acne giovanile? A questo e altri interrogativi risponderemo domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo Tempesta Ormonalico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com.